Convocati di Giovanni Capuano. Soldi, soldi, soldi, quanti soldi, lodati siano i soldi, i bene amati soldi, perché chi ha tanti soldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta. Ho sentito Conte ed altri. E cosa hanno detto? Conte. Non mi ha dato risposta, perché se no ve lo direi. Certo. E come l'ha sentito? Comunque ottimista? No. Cioè gli interessa la proposta? Una persona per bene, ho parlato normalmente. A me piacciono le persone che sono normali, le persone che vivono con modestia la normalità e il lavoro. Quindi anche una rivisitazione di quello che è il compenso, no? Quindi non chiaramente il compenso si dipenderà dalla nuova governance, il compenso non potrà mai essere milionario. Io ho in mente una cantera federale dove, ribadendo e riverdendo i principi di Bearzot, di Vicini, di Valcareggi, siamo arrivati a avere grandi risultati. Il buffo di questa storia è che siamo dotati del centro tecnico più importante del mondo, dove tutti vengono a imparare e fare lezioni di calcio, e avremmo problemi a trovare un tecnico? Ti siedi in un ristorante dove si pagano 100 euro, non puoi pensare di mangiare con 10 euro. 800 24 00 24, beh, non sono proprio 10 euro, quello che abbiamo letto oggi sui giornali. Oggi vi voglio in tanti, belli carichi, voglio sapere, 800 24 00 24, voglio sapere quali pensieri vi sono passati in testa per la testa questa mattina. Dove siete? Sotto l'ombrellone? Non lo so. Quando sulle prime pagine dei giornali avete letto della montagna di soldi che la federazione sta mettendo insieme, un po' di tasca propria, un po' con l'aiuto dello sponsor, per convincere Antonio Conte a sedere sulla panchina dell'Italia. La Gazzetta scrive 3 milioni e 6 netti, qualcuno scrive 4, altri arrivano fino a 5 milioni netti. E con questo, carissimo Fabrizio Biasin, noi possiamo serenamente fare a pezzi la pagina numero 11 del programma elettorale di Carlo Tavecchio, presidente della Federcalcio, quella del capitolo del CT dove diceva: il prossimo commissario tecnico dovrà lavorare con ruolo e mansioni come fosse in un grande club, non dovrà scegliere gli alberghi, eccetera eccetera eccetera, farà tutto Antonio Conte. Poi quello che pensava Tavecchio sul compenso del CT l'abbiamo sentito prima. Ma sì. Andiamo bene, proprio bene. Andiamo benissimo, Giovanni, bene, bene. Buon pomeriggio a tutti. Direi che i punti dei programmi sono fatti poi per essere modificati alla bisogna. Io credo che poi non sarà neanche l'unico che verrà cambiato. Alla fine poi l'importante... No, ce ne sono almeno altri 10, l'importante, erano 11. L'importante è volersi bene, riuscire a fare quello che tutti quanti vogliono, avere il grande CT. Certo è che prima o poi qualcuno dovrà chiarirci cifre e situazioni. Io dicevo prima fuori onda con te, non ci credo finché non lo vedo, perché non sono così, sono un po' basito, non sono così convinto che Conte sappia quello che sta facendo, però vediamo. Sì, e tra l'altro, ma poi avremo modo, da qui alle 15 siamo in diretta, 800 24 00 24, cercheremo anche di capire, di approfondire e di fare le domande giuste a chi può conoscere più di questa materia. Tra l'altro l'aspetto economico in tutto questo è ancora un aspetto secondario, secondo me, perché io finché non vedo nero su bianco, ad esempio, i vincoli per fare gli stage per i club che li hanno sempre rifiutati, io finché non li vedo nero su bianco sinceramente non ci credo. 800 24 00 24, chiedo a casa: è un problema il maxi stipendio di Conte, oppure va bene tutto perché lui è l'uomo giusto al posto giusto, è l'unico che può portarci all'europeo del 2016 uscendo vivo da un girone con Croazia, Norvegia, Bulgaria, Azerbaigian e Malta. Ricordo che passano le prime due. Non è complicatissimo, però diciamo. Lui avrà un contratto biennale e quindi dovrà più o meno fare questo, poi andare in Francia e fare quello che ha fatto Prandelli. Sì, speriamo che riesca a fare anche meglio. Diciamo che c'è un problema legato al contratto. A me francamente interessa ben poco se Conte guadagna 3, 4, 5, se è bravo e se li merita e riesce a convincere qualcuno a darglieli, fa benissimo a prenderseli. Il problema è chi glieli dà, perché se quello che ci dicono è vero e quindi interviene in maniera sostanziosa lo sponsor tecnico e quindi la Puma, si crea tutto un problema di etico, lo definirei, perché poi effettivamente come fai tu a dire alla Puma: oggi ho deciso che sparo, un nome a caso ovviamente, Balotelli non gioca. Cioè, ma ad esempio Balotelli, quello che a dicembre ha firmato quel contratto da 10 anni a, si dice, 5 milioni all'anno con la Puma, per esempio, per ma esempio. Balotelli non è l'unico, sono tanti giocatori targati Puma. No, te lo dico io, pensando che certamente Conte non potrà convocare o non convocare Usain Bolt e gli altri, esatto. Diciamo Buffon, diciamo Chiellini, diciamo Verratti, diciamo Balotelli, l'abbiamo detto. Beh, effettivamente anche qui sarà interessante capire se qualcosa verrà messo nero su bianco, anche se mi risulta che la posizione della Federcalcio sia questa, e cioè che il rapporto tra Conte e lo sponsor o gli sponsor, perché potrebbe anche essere una cordata, quindi qualcun altro ci mette dei soldi, è un rapporto diretto. Per la Federcalcio resta in carico quello stipendio da circa 1,7 milioni netti, e poi ovviamente insomma in questa fase sta facendo da ponte, da collante, perché questo accordo venga costruito. Insomma, Tavecchi ha trovato il modo per dire: io comunque lo stipendio non lo aumento, lui guadagnerà quello che guadagnava Prandelli praticamente. Però io ripeto, secondo me c'è un problema di carattere etico che bisognerà trattare, che qualcuno ci dovrà spiegare. Poi sono convinto che se arriva Conte è un bene per questa nazionale, perché è effettivamente l'allenatore più bravo. Devono però chiarire tutta una serie di questioni, perché altrimenti si rischia di fare la solita cosa all'italiana, per la quale dopo si crea confusione generale. Nel frattempo, tu lo sapevi che il signor Puma è praticamente il fratello del signor Adidas? Io l'ho scoperto stamattina in riunione. Sì, hanno litigato nei tempi che furono, e da lì hanno fatto nascere due colossi dell'abbigliamento. Poi c'è il terzo, quello, c'è il signor Arena anche, e l'altro che conosciamo. 800 24 00 24, non vogliamo fare i moralisti, lo dico anche a Fabio Cantadori in regia, non vogliamo fare i moralisti. Ha ragione chi scrive al 349 238 6666: Conte fa benissimo, io al posto suo farei la stessa cosa, e spero che faccia quello che tutti gli italiani vorrebbero fare, cioè mettere Balotelli fuori dalla nazionale. Io non so se lo farà, ma non è una questione di sponsor, non so nemmeno se sia una trovata intelligentissima prendere un 24enne comunque di talento e decidere che la sua storia in questa nazionale è finita. Poi c'è chi scrive: vergognoso, dovrebbero andare a lavorare gratis, c'è la crisi ma non è per tutti, vergogna. C'è anche chi dice: ma l'allenatore della nazionale non è un dirigente dello Stato, e allora al massimo deve guadagnare 260.000 euro all'anno. Io onestamente su questa cosa non vi seguo. Secondo me, ad esempio, è anche assurdo che il presidente della Federcalcio guadagni poco più di un impiegato. Beh, guarda, questa è la questione che invece noi di Libero abbiamo trattato a suo tempo per Prandelli, cioè effettivamente quello che ci aveva detto Renzi era che i dipendenti diciamo statali in qualche modo non potevano avere stipendi sopra un certo livello, però poi te la giustificano appunto dicendo che arrivano contributi dagli sponsor che sono privati e quindi riescono a giustificare qualunque cosa. Effettivamente si creano problemi di chiarezza, però ribadisco, il problema non è di Conte. Conte, se riesce ad ottenere un ingaggio elevato, è solo perché è il più bravo e quindi fa bene a pretenderlo. E il problema semmai è di Tavecchio, che ci aveva detto delle cose, le abbiamo ascoltate prima, e adesso probabilmente ne farà altre. Però ti devo anche dire che se il bivio è Conte da una parte e, non me ne voglia, ma Tardelli dall'altra, tutta la vita Conte. Io credo che il piano B sia Zaccheroni, mi risulta anzi sia Zaccheroni, che è un ottimo tecnico, avrebbe secondo me il profilo per fare il commissario tecnico dell'Italia. Però in questo momento Tavecchio ha bisogno del nome, ha bisogno di Antonio Conte, motivo per cui io credo oggi Antonio Conte potrebbe anche chiedere alla federazione di spostare la sede a casa sua e probabilmente la otterrebbe. 800 24 00 24, state scrivendo in tanti, state telefonando in tanti, poi ci sarà posto per le telefonate, traffico. Un concetto che deve essere chiaro: io sono tifoso della Juve, sono allenatore della Juve, ma dovessi allenare il Milan e l'Inter, Conte sarebbe lo stesso. Forse a qualcuno non è chiara sta cosa. Aspetta, è difficile, dai. E agghiacciante quello che dicono, e agghiacciante che è una capra respiratoria. Pensi che il calcio possa essere rotondo? È agghiacciante che un Conte tecnico tattico non possa vincere una partita col Catania senza che tutti sospettino che c'è qualcosa sotto. È agghiacciante. Chapeau. Intanto tutte le tessere del mosaico stanno andando al loro posto, carissimo Fabrizio Biasin. Lo dico anche all'ospite che saluto subito, Andrea Bodi, presidente della Lega B. Buon pomeriggio, presidente. Buongiorno a voi, era discontatore di Radio 24. Prossimo presidente della Federcalcio, noi lo annunciamo qui nel 2016. So che a Bodi non è d'accordo. No, non sono d'accordo. Io intanto vivo con i piedi ben saldi nel presente, cercando di lavorare bene per le responsabilità che ho oggi. E poi ognuno coltiva i suoi sogni e devo dire che ne coltivo di altri, quindi non ci siamo. Nel rapporto tra i sogni e la realtà non ci siamo. Sì, c'è anche di meglio nella vita che fare il presidente della Federcalcio. No, dicevo, tutte le teste del mosaico stanno andando al loro posto. Pochi istanti fa comunicato della Puma: noi sosterremo la Federcalcio, il nostro obiettivo è avere successo insieme. Mi sembra che sia l'antipasto di quello che potrebbe accadere da qui a questa sera con l'annuncio quindi dell'accordo tra Conte e la Federcalcio. Ci siamo a Bodi? Ma me lo auguro, chi sta lavorando sta portando avanti questa trattativa, ognuno svolge un ruolo. Io in questo momento sono concentrato peraltro a svolgere il mio ruolo, che è quello di presidente della Lega Serie B, quindi assisto, sono informato, ma assisto con il rispetto che si deve a questa trattativa, che secondo me è una trattativa positiva, che non contraddice gli impegni assunti, nella misura in cui comunque tutti vogliamo cercare di dare una scossa. E quindi credo che Antonio Conte possa essere questa scossa, e anche il modello che è stato proposto è un modello innovativo, perché per la prima volta, dovesse andare a buon fine, concorrerebbero in modo distinto e separato alla costruzione del modello tecnico anche le aziende partner. In altri paesi succede con successo, succederebbe eventualmente per la prima volta in Italia. Mi sembra che questo vada valutato in tutta la sua positività, ricordando una cosa importante: la federazione non è un ente pubblico, quindi dobbiamo cercare di informare bene i nostri radioascoltatori, perché sennò rischiamo di trattare la federazione come il CONI, è un'altra cosa. Il CONI è un ente pubblico, mentre la federazione, come tutte le federazioni, è soggetto privato. Quindi la questione dei 260.000 euro, tetto massimo per lo stipendio di un top manager, qual è il selezionatore della nazionale di calcio. Poi al di là di ente pubblico o non ente pubblico, io l'ho detto prima, bisogna anche andare sul mercato. Discutiamo sui 3,5, 4, 5 milioni, se sono troppi. Io l'ho chiesto anche a casa, 800 24 00 24, però certamente non si può pensare di prendere un selezionatore importante che serve per la nazionale italiana e pagarlo la cifra che prende mediamente un allenatore di Serie B. Quindi a Bodi non si pone il problema di dire paga la federazione o paga lo sponsor? Mi pongo due ordini di problemi. Il primo, di principio, intanto, se Antonio Conte risponde o meno, io penso di sì, all'identikit di che tipo di allenatore vogliamo. Il secondo, se dal punto di vista finanziario, per la federazione l'impatto del futuro tecnico sia maggiore o inferiore o uguale a quello di Cesare Prandelli. Se alla fine abbiamo accettato in qualche misura e abbiamo condiviso quel numero relativo al contratto di Prandelli, non vedo perché non lo si debba fare con Antonio Conte. E quel numero è l'1,7 più o meno netto di partenza, che è la parte che la Federcalcio mette anche nel contratto di Conte. Presidente, buon pomeriggio. Buon pomeriggio, se lei mi consente, sì, un'ultima considerazione proprio sull'identikit. Noi abbiamo detto nei giorni scorsi che avremmo avuto bisogno di un commissario tecnico di grande personalità, di un certo carisma, che avesse già dimostrato di saper essere un vincente, con un progetto sportivo importante che partisse dalla capacità di selezionare il meglio, dialogando con gli altri allenatori della Serie A e magari anche qualcuno della Serie B, in grado di dialogare positivamente con gli allenatori delle giovanili, perché più facilmente, più velocemente potessero crescere i nostri giovani anche a livello di maglia azzurra. Io credo che tutte queste caratteristiche ci siano, e questo è un dato importante. Dobbiamo trovare un punto di equilibrio tra la valutazione che Conte sia la persona giusta e il fatto di sostenere un costo che va visto come investimento, perché quello che conta è quello che una persona produce in termini sportivi e poi anche in termini finanziari. Se Conte riesce addirittura a far guadagnare la federazione più risorse dai partner, credo che anche questo sia un fatto non marginale che vada tenuto in conto. Presidente, buon pomeriggio, Biasin di Libero. Lei è stato chiarissimo, e tante volte non c'è chiarezza, e quindi le sue parole sono benvenute, però io devo fare un po' l'antipatico. Non crede che prossimamente si porrà il problema della Puma, sponsor tecnico della nazionale, che sicuramente qualcuno dirà imporrà i suoi convocati, perché magari non succederà mai, anzi sicuramente non accadrà mai, però ci sarà questo retropensiero sempre comunque che accompagnerà l'avventura di Conte? Perché noi siamo degli inguaribili diffidenti, e molto spesso siamo diffidenti perché ci conosciamo e quindi pensiamo che tutto il mondo si comporti come ci comportiamo. Siamo italiani. Siamo italiani, ma dobbiamo cercare di essere gli italiani migliori e non gli italiani peggiori. Un'azienda costruisce, tanto più un'azienda globale, tutto il suo successo sul presupposto della reputazione, oltre che dei buoni prodotti. In generale questo tipo di dubbio vuol dire non credere nella serietà di un'azienda che investe su un progetto vincente, non sul suo progetto. Il suo progetto è il progetto Puma, il progetto federale è un progetto che deve vincere indipendentemente dai protagonisti, che devono essere comunque gli interpreti di un'aspettativa e di una prospettiva che è diversa rispetto agli ultimi, almeno agli ultimi 4 anni, agli ultimi 2 mondiali. E Conte non è tipo che metterebbe a repentaglio il risultato per piegarsi a un'imposizione di un terzo. Non ha le caratteristiche lui e non ne abbiamo le caratteristiche noi. Guarda, io seguo il suo discorso, sono anche abbastanza d'accordo. Diciamo che oggi, se io fossi un giocatore di calcio preferirei essere sponsorizzato Puma piuttosto che Adidas, ma questa è perché io sono uno di quelli che pensa sempre male. No, perché i due fratelli hanno litigato, esatto. E quindi magari il fratello della Puma, il fratello tedesco della Puma ce l'ha su col fratello tedesco dell'Adidas. Posso dirvi una cosa? Loro sono tedeschi, noi italiani, loro tedeschi, e se la sono legata al dito. Dirvi una cosa, fermo restando il fatto che chi svolge una funzione come la sua, che non è soltanto di informazione ma anche di provocazione positiva, è sempre il benvenuto, perché io ho paura del pensiero unico, quindi che ci sia il contraddittorio, questo aiuta. Però da Radio 24 mi aspetto di tanto in tanto, anzi direi quasi sempre, una politica di costruzione del modello, una visione positiva delle cose, una visione imprenditoriale che non si fa condizionare da tutti i dubbi, da tutte le perplessità, da tutti i retropensieri, perché se un imprenditore ragionasse così l'azienda non la manderebbe avanti. No, ma infatti il suo ragionamento è assolutamente condivisibile, ci mancherebbe altro, anzi lei ha fatto anche delle ottime cose in Serie B. Proprio per questo, già che ci sono, ne approfitto, com'è la situazione 21/22 squadre in Serie B? Perché ho sentito che l'ho sentita parlare l'altro ieri, diceva accogliamo la richiesta del CONI, invece ieri non era più d'accordo. Io credo che bisogna saper distinguere il doveroso rispetto relativamente alle decisioni di un organo di giustizia dal diritto alla critica. Quindi è evidente che accogliamo, perché non è che possiamo rifiutarci, e io nel ruolo che ricopro non devo fare l'arringa popolo, devo essere in grado anche di rispettare per primo e far rispettare quelle che sono le decisioni delle istituzioni, però ho il dovere anche di mantenere acceso il cervello, di saper valutare e ponderare nel tempo. Mi sono preso 2 giorni, ho letto bene le cose e ho espresso i miei dubbi, dopodiché è evidente che il giudizio del collegio di garanzia è un giudizio sportivamente inappellabile, quindi giocheremo a 22. Mi è sembrato comunque, dal punto di vista del rispetto delle prerogative, dell'autonomia della singola federazione, un colpo non indifferente, che mi auguro che non produca effetti, perché ci sono 19 società su 22 che hanno votato per il blocco dei ripescaggi e c'è stato il Consiglio federale che all'unanimità ha ratificato questa decisione di indirizzo, e che il Collegio di Garanzia abbia deciso un'altra cosa, al di là dei tecnicismi e delle interpretazioni, mi sembrava un fatto grave, e siccome io sono una persona trasparente, il mio pensiero con responsabilità l'ho espresso. È detto che noi qui siamo costruttivi, semplicemente facciamo anche le domande che la gente ci sta scrivendo in tanti, 349-238-6666, allora, invece di rispondere noi, abbiamo fatto rispondere a una persona che le cose le conosce meglio. Guardi, la cosa importante, perché poi i tifosi di calcio parlano con la pancia, altrimenti non sarebbe così seguito. Sono dell'idea che la cosa forse più importante che dobbiamo saper fare è ascoltare. Ascoltare la gente e saper dare risposte, perché se nella vita di tutti i giorni non sempre le istituzioni rispondono e soprattutto ascoltano, almeno il calcio, che è il più grande fenomeno popolare del nostro paese, deve saper invece ascoltare e rispondere. Senta, io ho una curiosità, so che lei mi risponderà che è presidente della Lega di Serie B e ha già le sue cose da pensare. Mi dice come fa il suo collega di Serie A Beretta a metà agosto a garantire a Conte che faranno gli stage, che è una cosa che tradizionalmente i club vedono come il fumo negli occhi? Sarà utile sicuramente che lo chiediate a lui. Io posso interpretare una diversa modalità, perché la disponibilità dei club passa per il confronto, per la concertazione, per il rispetto reciproco del lavoro. Ci sono allenatori, preparatori atletici che lavorano ogni giorno sui propri ragazzi, il commissario tecnico li osserva, ma li ha con sé una volta al mese. Se manca questo dialogo e questo contatto diventa tutto più difficile. Se ci sarà invece dialogo, rapporto, presenza anche fisica, discreta ma comunque operosa, io sono convinto che si scioglieranno anche tutte quelle resistenze che ci sono state in passato. Io ho un'ultima domanda da fare, che è questa: lunedì vi trovate per la prima riunione del Consiglio federale, mancano 2 settimane all'inizio dei campionati. Volevo capire se c'è tempo per cambiare le norme su razzismo e discriminazione territoriale o se si parte con le norme dell'anno scorso. Ne parleremo lunedì. Penso che sia un tema all'ordine del giorno, se non proprio dell'ordine del giorno, dell'agenda politica della federazione, perché bisogna sapere affrontare la realtà per quella che è, si manifesta. Noi su questo tema, che è tremendamente delicato, dove bisogna essere molto determinati, molto chiari, e deve essere tutto inequivocabile, forse ci siamo lasciati un po' andare alla demagogia, e tanto più il tema è delicato, tanto più non ci si possono permettere errori. Presidente, una cosa che mi sono chiesto io, ma anche tanti italiani: perché lei non si è presentata per l'elezione da presidente da FIGC? Tra l'altro se lo chiede anche Mauro da Genova, provincia di Cuneo, dice: Abodi è un fenomeno, che personalità, altro che Tavecchio. Grazie, ma non è così. Carlo Tavecchio comunque è un dirigente di grande esperienza e ha gestito la Lega Dilettanti facendola diventare, io la chiamo, una piccola arca di Noè, per far capire che c'è tutto dentro, e l'ha gestita da professionista. E sono convinto, tra l'altro, che la federazione non abbia un padrone, abbia un presidente che lavorerà con tutti i soggetti che lo hanno aiutato a raggiungere questa posizione. Ci sarà una squadra al lavoro. Non mi sono candidato perché ritengo che il mio percorso sia al momento diverso, io devo ancora finire tutto quello che sto iniziando a fare, ho iniziato a fare 4 anni fa con la Serie B, e c'è ancora molto da fare, voglio lasciarla stabilizzata, poi coltivo umanamente un'altra ambizione di fare prima un passaggio, e non so se succederà, nella massima serie, e poi se Dio vorrà e se me lo meriterò, farò anche altre valutazioni, partendo da un presupposto, perché non voglio neanche nascondermi, io vivo del mio lavoro e come tutti quelli che ci ascoltano, ringrazio Dio, sono felice di quello che faccio. E quindi il Presidente di Federazione non lo può fare in questo momento. C'è un tema che va tenuto in conto, che io in questo momento ho anche l'impossibilità di farlo per le condizioni economiche, quindi io con grande onestà lo dico, perché è giusto che si sappia anche questo argomento. Allora, un consiglio per il futuro significa che prende troppo, ma noi lo dicevamo prima del traffico, prende troppo poco il presidente della Federcalcio in questo momento, perché deve essere un manager di un certo livello, preso anche dal mercato sportivo in questo caso, però attenzione, non sempre il discorso bisogna pagarli poco è un discorso intelligente dal punto di vista della progettualità. Io credo che la retribuzione debba essere commisurata alla responsabilità, al ruolo e agli obiettivi che vengono raggiunti. In qualsiasi ruolo di responsabilità dovremmo essere misurati proprio sulle performance, e molto spesso invece si ragiona sulla retribuzione fissa. Io ho un'altra mentalità, e non è un caso che anche nella nostra Serie B abbiamo inserito il tetto salariale, che tiene conto di un fisso e di un variabile. Mi piacerebbe che anche a livello federale ci fosse questa diversa misurazione. Grazie Presidente. Grazie a voi e a chi ci ha ascoltato. Buona per il futuro stia attento alle bucce di banana, mi raccomando. Ma no, ma lui non ci cade. Ha ragione che ha scritto. Però, insomma, c'è la borsa? Borsa. Quindi mi diceva, scusi, la domanda qual è? Dice, quindi che cosa avrebbe fatto? Io ho detto che cosa avrebbe fatto. Cosa avrebbe fatto lei? Allora, 800 24 00 24, abbiamo sentito il presidente Abodi e su alcune cose mi ha convinto, carissimo Fabrizio Biasin, poi ognuno è libero di pensarla come vuole. C'è chi dice, mi sembra che la Juventus esca particolarmente bastonata quest'estate, prima l'addio di Conte, poi la vittoria di Tavecchio, ora Conte commissario tecnico della nazionale. Sì, mi interessa anche questo aspetto, cioè capire ad esempio come la prendono gli juventini, cioè se Conte sarà davvero un commissario tecnico amato da 60 milioni di italiani o se c'è una parte importante, perché gli juventini sono una parte importante, che ad esempio considererà un tradimento questo passaggio alla nazionale. Luciano da Bari. Luciano. Sì, buongiorno. Prego. Sentite? Sì. Benissimo. Bene, grazie per la convocazione. È da tempo che vi ascolto, finalmente riesco a partecipare. Guardi, io sono un juventino, manco a farla apposta. Sono ancora ferito per l'abbandono del come per cui c'è stato da parte di Antonio Conte, però non mi ferisce il fatto che vada in nazionale, anzi, secondo me è una persona di carisma e di personalità adatta in questo momento storico per riportare un po' su alla nazionale. Non so se quindi siete d'accordo. E quindi è contento? No, ma sì. Allora, che Conte sia in questo momento insieme a Mancini, ovviamente, ma poi lì ci sono altre logiche. Il miglior allenatore italiano libero è assolutamente in dubbio. Poi Conte forse non ha il profilo del selezionatore e non a caso lui si sta scavando un ruolo diverso. I dubbi, semmai, secondo me, sono se riuscirà davvero, al di là delle assicurazioni che gli sta dando Tavecchio in queste ore, a scavarsi questo ruolo. Però messa così potrebbe anche essere non più un selezionatore ma quasi un allenatore. Comunque io sono dell'idea che tanti tifosi juventini siano contenti di questa scelta, perché il pericolo invece era che Conte andasse su qualche altra panchina di qualche club, magari anche qui a Milano. Francesco da Milano. Io ho sentito Abodi. Per carità, grande rispetto per la capacità dialettica, però i contenuti mi sembrano assolutamente contraddittori. Ha dato una descrizione di un selezionatore e Conte non lo è, di una persona capace di mediare e Conte non lo è. La storia di Conte parla in una direzione diametralmente opposta, francamente. Sì, però Conte entra, secondo me, in questa avventura da uomo forte, da uomo della provvidenza, e questo non è un aspetto da sottovalutare. Io l'ho detto prima con una battuta, in questo momento Conte potrebbe chiedere alla Federcalcio di spostare la sede a casa sua e secondo me alla Federcalcio ci penserebbero. Guarda, è tutto vero, però l'ascoltatore secondo me ha ragione, cioè dobbiamo tenere presente quello che è il curriculum di Conte. Adesso è molto facile per Conte pretendere e chiedere e tutto gli viene garantito, però poi nel corso della sua esperienza noi facciamo tutto molto semplice, parliamo di stage, ma il calendario è già completo, cioè io non so dove troveranno lo spazio. Sì, ci sono un paio di date possibili, tra l'altro due a gennaio, una dopo l'altra, quindi diciamo una a gennaio e una a febbraio, e poi c'è da sperare che vadano fuori tutte le italiane dalle coppe europee, altro, e allora si può scavare qualcosa magari ad aprile. Ricordiamoci anche che Conte è l'allenatore che si è lamentato con Prandelli di recente per una convocazione, se non sbaglio, di Chiellini per l'amichevole con la Spagna, e quindi adesso toccherà a lui fare questa cosa, insomma non è semplice. Vitalba da Roma, c'è già passato Sacchi all'epoca, eh? Vitalba. Buongiorno. Prego. Io mi chiedo se sarà possibile avere visione di questi contratti di sponsorizzazione, perché magari solamente dal quello è, cioè qui come al solito si gioca tutto sul punto della trasparenza, cioè se noi riusciamo a vedere cosa dicono questi contratti, quali sono i vincoli che ha Conte, dopodiché le scelte che lui farà chiaramente se le deve addossare la responsabilità. Sarà troppo facile poi dire sì, però lo sponsor aveva preteso questo, allora vediamo preventivamente che cosa è scritto nei contratti. Questa è una richiesta legittima. È una richiesta legittima la sua. Io mi sento di scommettere che invece resteranno ovviamente riservati, come è per contratti di un certo tipo. Però diciamo che ci vorrebbe un'operazione trasparenza in questo caso, proprio perché si tratta di un inedito. Sarebbe giusto e secondo me anche molto intelligente da parte del presidente federale dire non c'è nulla di scandaloso, vi facciamo vedere. Non so se succederà, però sarebbe intelligente. Io scommetto che non succede. Chissà quanto prende l'allenatore del San Lorenzo de Almagro. Thank you. Forse il confine dello Stato della Città del Vaticano gli sta stretto, e così Papa Francesco prima guarda l'orologio, come per chiedere facciamo in tempo per l'Angelus, e poi, con ancora l'abito liturgico, come dire, espatria, anche se per un metro poco più, per salutare folla e telecamera. I Chiegani San Lorenzo. I Chiegani San Lorenzo, grazie Papa, la mano del Papa! Peso buca del continente americano, Ortigosa, gol! Chissà che notte che ha passato Papa Francesco. No, in verità no, le cronache dicono che è stato informato della vittoria del San Lorenzo de Almagro, la sua squadra che ha vinto la Coppa Libertadores, che è la Champions League del Sud America, per la prima volta. Una volta atterrato in Corea del Sud. Non è fortunatissimo come tifoso Papa Francesco, dormiva quando c'era la finale Germania-Argentina, insomma un po' come se un interista il 22 maggio del 2010, la notte del triplete, fosse stato rinchiuso da qualche parte senza televisione. Stefano Borghi, ciao, collega di Fox. Ciao ragazzi, ben trovati. Il Papa Cuervo. Ciao Stefano. Ciao, ciao. Se dici che non è fortunatissimo, non lo so. Da quando è stato eletto Papa, il San Lorenzo ha vinto un campionato che aspettava da 6 anni e una coppa che aspettava da 106, per cui non è male come spiera di tifoso, ecco. No, anzi, oggi ho visto su internet girano dei fotomontaggi meravigliosi. C'è anche chi fa notare che da quando Papa Francesco è diventato Papa, il San Lorenzo è passato dalla quasi retrocessione alla vittoria nella Coppa Libertadores. Segno che avere degli agganci in alto evidentemente quando si è tifosi serve, magari servirà anche a dicembre per la Coppa del Mondo, per club. Io non so se Carletto debba temerlo questo San Lorenzo o no, Stefano. Ma guarda, c'è un gap molto molto alto fra le squadre sudamericane e quelle europee, in particolare fra questo Real Madrid e questo San Lorenzo, che rischia anche di perdere altre figure, perché comunque il giocatore principale della campagna Libertadores è stato Correa, che si è già trasferito all'Atletico Madrid, anche se questo ragazzo adesso ha dei problemi di salute abbastanza significativi, per cui sicuramente il Real Madrid è strafavorito. Però quello che ci ha insegnato la storia proprio del San Lorenzo in questi 106 anni è che non c'è nulla di impossibile, né nel bene né nel male. E poi questa mano de Dios che ritorna in qualche modo nel calcio argentino è qualcosa da cui guardarsi, perché i risultati sono abbastanza chiari. Sì, io so che tu hai scritto un libro sul San Lorenzo de Almagro. È particolare questo legame con il Papa. Io ho scherzato, ma io immagino che lui sceso dall'aereo abbia chiesto immediatamente il risultato della partita. Ma di sicuro, perché è un tifoso vero, è socio da tanti anni, paga regolarmente la sua quota di iscrizione come socio del club, ha partecipato attivamente a tanti momenti. Poi insomma, il club che porta il nome di un santo, un papa tifoso, che è stato fondato da un sacerdote, un legame in qualche modo ce lo ha. Tra l'altro il mio libro è uscito appena prima che vincesse il campionato, per cui gli ultimissimi trionfi sono seguiti, però proprio anche nel ripercorrere la storia di questo club si è notato che gli è successo veramente di tutto. Mancava solo la conquista della Coppa Libertadores, che era una vera e propria ossessione, anche proprio l'acronimo del nome del club, CASLA, che vuol dire Club Atletico San Lorenzo de Almagro, era stato tramutato in Club Argentino Sin Libertadores de America, senza Libertadores, perché era l'unica delle grandi a non aver mai vinto questo trofeo. Adesso la maledizione è superata, e veramente stanotte c'è stata una festa nel quartiere di Boedo che è stato qualcosa di impressionante, anche proprio per come si è sviluppata, perché come sappiamo il calcio sudamericano, quello argentino in particolare, vive ancora grossi problemi a livello di violenza e di mancanza a volte di freno e di mentalità sportiva. Ieri sera tutto lo stadio, nel momento più importante della propria storia, ha voluto prima applaudire gli avversari del Nacional, che hanno fatto una partita estremamente degna, sono stati anche molto sfortunati, meritavano forse addirittura di vincere, e questo è stato insomma un segnale di crescita totale da parte di un club che, come hai detto tu, 2 anni fa era a mezz'ora da un'incredibile retrocessione. Ciao Stefano, mi racconti il San Lorenzo dal punto di vista tecnico, perché diciamo, miracoli a parte, ci saranno anche dei contenuti tecnici di un certo livello. Guarda, è una squadra che non fa un calcio estremamente innovativo. Anche ieri sera ha giocato con una sorta di 4-4-2, con due attaccanti veri, una prima punta come Matos, che è un mestierante, e una seconda punta come Cauteruccio, che è un giocatore interessante, è stato anche accostato all'Italia qualche anno fa. Ieri sera, tra l'altro, giocava la sua prima partita da titolare dopo 11 mesi out per un infortunio al ginocchio. I due giocatori principali, la difesa è abbastanza di basso livello per i massimi standard europei. Il leader è Mauro Cetto, che a Palermo sicuramente non ha lasciato ricordi entusiasmanti. L'altro centrale è Sentiletti, che era stato accostato alla Lazio, un giocatore di grande forza fisica, ruvido ma non particolarmente veloce. Secondo me i giocatori più interessanti sono tutti sugli esterni. Detto di Romagnoli, che è il grande leader, la grande figura, che debuttò ormai 16 anni fa con il San Lorenzo e che ha vinto tutti i trofei internazionali nella storia di questo club, ma che ha già firmato un precontratto con il Bahia, gli interessanti sono tre giovani. I due terzini, che sono Buffarini a destra, un vero miracolo, un giocatore esaltante per l'occhio, perché è uno che lotta, fa tutta la fascia, a volte è un po' confusionario ma è molto impattante. A sinistra c'è invece Mas, che è anche un giovane, ha una struttura fisica interessante, secondo me sarebbe molto adatto per il calcio italiano, soprattutto ora che va di moda la difesa a 3, quindi il centrocampo a 5 con gli esterni a tutta fascia, perché ha anche piede, arriva fino in fondo. Ma il giocatore in assoluto più forte in questo San Lorenzo è l'ala destra, si chiama Vissalva, è un 94, è un giocatore che, oltre ad avere una dimensione tecnica degna di un vero talento argentino, ha anche messo molto fisico, è un altro giocatore che corre tanto, questo può arrivare molto in alto. Magari il prossimo obiettivo di Sabatini, che quei mercati li conosce come le sue tasche, e forse vale la pena andarselo a prendere adesso, prima che ci pensi qualcun altro. Però messa così, mi pare che Carletto Ancelotti da qui a dicembre possa dormire sonni assolutamente tranquilli. Grazie Stefano. San Lorenzo contro San Daniele con Ancelotti. Grazie Stefano. Grazie a voi, un abbraccio, alla prossima. Ciao Steve. Traffico. Una squadra che si adatta è una squadra forte, che sa fare tutto. Ha una piccola vals austriaca, no? Forse francese. Allora, scrive un amico: Abodi ha appena detto che la Federcalcio non è un organo statale, quindi cosa ve ne frega del contratto di Conte? Andate a vedere i soldi che vanno all'estero per comprare giocatori scarsi, eccetera, eccetera, eccetera. Chissà se leggerete questo messaggio, Enrico. No, noi lo leggiamo, e poi faccio notare che la questione del contratto del prossimo cittino l'abbiamo sollevata io e Fabrizio Biasin, avete sentito, era l'allora candidato Carlo Tavecchio che aveva detto certe cose, poi noi l'abbiamo stracciato, il punto numero 11 del programma di Carlo Tavecchio, e noi riteniamo che meno male che la Federcalcio in qualche modo riesce a convincere Antonio Conte a diventare commissario tecnico della nostra nazionale, meglio quello che un prodotto della cantera federale che in questo momento non esiste, perché parlavamo degli anni 60, 70 e 80, meglio Conte. Giorgio da Rimini, Giorgio. Sì, buongiorno, grazie per avermi convocato. Prego. No, in merito a quello che ha appena detto, sottoscrivo pienamente, però comunque Tavecchio ha detto che voleva spendere poco, mi sembra al solito un modo all'italiano per aggirare le regole che si sono proprio messe, non lo paghiamo noi, lo paga lo sponsor. In un periodo in cui gli sponsor per il marketing sportivo, specialmente la nazionale, ha subito un calo del 25%, dirottare i soldi di eventuali sponsor che possono riportare gli investimenti pubblicitari per la federazione a certi livelli, invece di rotarli direttamente per pagare il selezionatore e l'allenatore nazionale, non mi sembra economicamente valida per la federazione. Sì, non credo però, Giorgio, che funzionerà così. Io ho l'impressione che quei soldi saranno un extra budget dello sponsor o degli sponsor, e saranno in qualche modo legati alla figura, all'immagine di Antonio Conte, e non andranno a toccare quello che è il contratto che la Puma ha con la federazione e che ha, se non sbaglio, fino al 2018. Pietro da Varese. Pietro. Buongiorno. Prego. Buongiorno, mi sentite? Sì. Dica. No, niente, io volevo dire la mia riguardo l'arrivo di Conte in nazionale. Per l'amor di Dio, sono un tifoso juventino, mi fa piacere, e tanto voglio dire, gli uomini passano, le società rimangono, no? Poi su quello che lui riuscirà a fare sarà tutto da vedere, perché per carità ci ha regalato 3 anni anche belli, però non dimentichiamo che cosa ci ha regalato Trapattoni. E poi quando è andato in nazionale purtroppo si è dovuto rifare all'acqua santiera. Non dimentichiamo che cosa ci ha regalato Lippi, perlomeno lui un mondiale l'ha vinto. Conte bene. Sì, ci ha regalato un mondiale, che non è, certo, non è proprio pochissimo. Io no, solo che purtroppo ce l'ha regalato nel momento in cui il calcio italiano era nella burrasca e non è stato valorizzato come quello dell'82. Questo sì, sì, dove eravamo comunque nella burrasca più o meno allo stesso modo. Io credo, Pietro, che il problema di Conte è che poi il materiale è quello. Uno dei vantaggi, anche se mancano due settimane alle prime convocazioni, è che poi in fondo il materiale umano è più o meno quello che ha portato Prandelli in Brasile. Possiamo recuperare, sicuramente recupereremo Pepito Rossi, forse Montolivo no, perché è ancora infortunato, forse Osvaldo, vediamo, ma non certamente immediatamente. Ma ho l'impressione che Conte poi ripartirà più o meno dalla squadra che gli ha lasciato Prandelli in Brasile, perché altro non c'è, e questo è il grave problema del calcio italiano. Riusciamo a fare Massimo da Latina prima di parlare di basket? Massimo. Sì, prego. Buongiorno. Senta, volevo dire, io non sono un esperto di calcio, ma telefono perché è stato fatto un riferimento allo sponsor Puma. Sì. Ora, io sono un grande lettore della edizione cartacea del Sole, e nel tempo ho appreso questo, che in realtà le due società, Adidas e Puma, dei due fratelli separati, Dassler, in realtà non appartengono più ai fratelli. Sì, ma dove ci siamo ficcati? Non posso dire una cosa? La Puma è della Louis Vuitton. Già, ma per carità, lei ha ragione. Lei ha ragione, ci flagelliamo. No, ma non ce ne frega niente. Avevamo fatto una battuta, Massimo. Avevamo fatto una battuta, poi dopo, evidentemente, da quando sono state fondate, Adidas e Puma, che sono due colossi dell'abbigliamento sportivo, hanno fatto chissà quali strade. Grazie comunque, Massimo, basket. Yo, for all the hustlers and dreamers, we feel you, here we go. This is the one for the ninjas and rock stars, waiting for the chance to come up like a pop tart. People with a vision on their way to the top, don't let anybody tell you when to stop, start. Stasera noi abbiamo fatto una grande impresa, perché non era assolutamente facile andare a vincere, soprattutto perché loro arrivavano da una sconfitta. Però meno male siamo sempre stati lì attaccati alla partita, e alla fine siamo riusciti a portarcela a casa. Poteva essere una partita tesa, perché per noi era la prima partita, per loro erano già spalle al muro, e infatti il primo tempo è finito a 28-25, noi penso 25 punti in un tempo non abbiamo mai fatti quest'estate. Confidiamo che il pubblico ci aiuti, perché per noi sarebbe straordinario vincere le due partite in casa che ci darebbero probabilmente la qualificazione. Ed è stata una serata da sogno quella di ieri del basket italiano, 65-63 a Mosca contro la Russia, con grande rimonta finale, con grande capacità di sofferenza, qualità, una vittoria che pesa tonnellate nella corsa all'europeo, corsa che adesso si mette in discesa per la nostra nazionale. Massimo Oriani, inviato della Gazzetta dello Sport, ciao Massimo. Ciao, buongiorno a tutti. Si mette in discesa? Beh, indubbiamente, perché questa era la partita da vincere, in teoria anche da perdere con un piccolo scarto, e a un certo punto sul meno 10 devo dire che con un paio di colleghi abbiamo fatto questo ragionamento, forse è il caso di guardare allo scarto e non più alla vittoria. Invece ancora una volta questa nazionale ha dato dimostrazione di grandissima compattezza, spirito di gruppo, voglia di lottare insieme, e ha vinto una partita non facile, brutta, giocata male da entrambe le squadre, ma questo è un segnale positivo ulteriore, direi, a questo punto. Sì, e la conferma che Pianigiani ha costruito un gruppo solido, oltre che dotato di una sufficiente qualità tecnica. Indubbiamente è stato il lavoro di queste due, tre stati di Simone che ha costruito, come dicevi tu, le basi, ma anche qualcosa di più, perché adesso non è giusto dire magari poi l'anno prossimo, aggiungendo Berinelli, Bargnani, Gallinari, questa squadra diventa più forte. Certo, indubbiamente il talento serve, perché abbiamo dei limiti che si vedono in questa squadra. Però allo stesso tempo, prima di parlare di chi non c'è, di dire potremmo essere ancora più forti, come hai detto tu, riconosciamo a questo gruppo quello che ha fatto, quello che sta facendo, come ha saputo crescere nel corso di uno o due anni, ma soprattutto quest'estate si è visto, secondo me, veramente il frutto del lavoro di Simone su questo gruppo. Hai detto una cosa giustissima, cioè è bello il parallelo col calcio. Mentre noi al mondiale non avevamo una squadra, non avevamo un gruppo, la nazionale di basket invece mi sembra che abbia il punto forte proprio nel gruppo. A proposito di questo, i due fratelli come si sono comportati ieri? Beh, Alessandro è stato strepitoso, Stefano ha fatto la sua parte giocando peraltro mi sembra 7 minuti, Alessandro è stato fantastico perché anche lui è stato coinvolto nell'inizio faticoso in attacco, non trovava il canestro, però ha avuto quello sprazzo finale incredibile che solo i grandissimi giocatori come lui possono avere. Bisogna vedere adesso la caviglia come sta, perché ieri è ricaduto urlando di dolore, a quel punto diciamo guardate, abbiamo detto aia, qua è finita, invece ha voluto rientrare, però un discorso è a caldo la caviglia, dopo 4 ore di volo stanotte per rientrare a Cagliari non so oggi come sia conciata, speriamo di riaverlo domenica contro la Svizzera. E siccome questa è l'estate in cui il gruppo si è completato, poi ovviamente tutto riporta anche alla gestione dell'ormai storico caso Hackett, dico storico perché ormai è consegnato ai libri di storia e non esatto. Più di cronaca, però visto che parlavamo prima di Conte e di quello che lo aspetta nel gruppo della nazionale e anche la gestione di talenti particolari come quello di Mario Balotelli, una lezione, un esempio può venire dalla pallacanestro in quest'estate. Io ci vedo un parallelo abbastanza riscontrabile tra Balotelli e Hackett. La risposta della federazione mi sembra che sia stata decisa, ma non è tanto il fatto che lui se ne sia andato, si sarebbe potuto ricucire, quello è tutto quello che c'è stato dopo, lo sfogo sui social network pesanti. La lezione mi sembra che sia esemplare, io sono sicuro che Hackett è un giocatore, è un ragazzo intelligente che ha bisogno di maturare, avrà modo di capire dai suoi errori e saprà ritrovare la strada giusta, però nel frattempo è giusto anche che la federazione nazionale faccia i passi che deve fare in una situazione del genere per non permettere a tutti poi di fare quello che vogliono. Grazie Massimo. Grazie a voi, buona continuazione. Grazie Massimo Riani, inviato dalla Gazzetta dello Sport. Abbiamo ancora un paio di minutini. Allora, prima ti faccio sentire Garcia oggi su Benatia. Per me veramente mi diverto perché ieri ho letto che al 99% aveva già firmato in un altro club e oggi ho letto che al 99% rimane alla Roma. Ieri ho cercato un sostituto e oggi mi sono fermato. E domani magari dovrà ricominciare Garcia a trovare un sostituto di Benatia, perché ho l'impressione che il primo a fare il tifo che questa offerta arrivi sia Sabatini. Guarda, io non so se Benatia resta o va via. Io sono certo che la Roma ha una garanzia che si chiama Walter Sabatini. In un caso o nell'altro Sabatini saprà fare il bene della Roma e sono d'accordo con te. Secondo me lui non vede l'ora che arrivi un'offerta perché sicuramente ha già in serbo una carta a basso costo da giocarsi e quindi vuol dire bilancio inattivo. Sì, alla prossima plusvalenza. E poi leggo pochi minuti fa Massimiliano Allegri che dice Vidal resterà un giocatore della Juventus. Beh, se si è sbilanciato, avevano dato una sorta di ultimatum entro Ferragosto, se il mister si sbilancia è evidente che ha delle certezze. Questa cosa secondo me è la stessa, vale come per Sabatini. Secondo me la Juventus aspettava un'offerta e avrebbe volentieri venduto il giocatore. Sì, anche perché in ogni caso insomma le grandi squadre si costruiscono anche attraverso grandi e intelligenti cessioni, forse questo era davvero arrivato il momento di Vidal. Ci fermiamo qui, domani ci siamo a partire dalle ore 14. Io ringrazio Fabio Cantadori, ringrazio Fabrizio Basin che è stato qui. Grazie con me. Grazie a voi. Ciao a tutti, a domani. Grazie, vi saluto tutti. E forza Italia! Viva! Viva l'Italia! E viva! Abbiamo vinto! Abbiamo battuto l'Inghilterra! Abbiamo un calcio, abbiamo degli asili, abbiamo delle scuole calcio, nessuno ci deve insegnare niente. Il calcio è come una fiction. Vanno in campo 22 gladiatori, 22 ragazzi e che vinca il migliore. Diamo una botta forte a questo calcio.